Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento di oggi con l'Europa. Europa che oggi parla più che mai inglese, visto che la decisione attesa da parte della Corte britannica dice che tocca al Parlamento e solo il Parlamento è sovrano nella decisione di avviare quel processo, appunto, che chiamiamo in maniera complessiva Brexit, di allontanamento da parte del Regno Unito, dunque, del progetto europeo. Sentiamo da Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, qual è la situazione dopo la decisione di questa mattina. La Corte Suprema britannica ha deciso, la Brexit si farà, ma a decidere l'iter sarà il Parlamento. Il verdetto dei supremi giudici conferma la sentenza dell'Alta Corte, pertanto ribalta la volontà del governo May, che sperava di poter avviare l'articolo 50 alla fine di marzo, per avviare il recesso dall'Unione Europea. Così, molto probabilmente, non potrà più essere. Dipenderà dalla volontà di Westminster, che andrà alla conta fra i conservatori, ma soprattutto fra i laburisti. Ci saranno molte defezioni, gente cioè che voterà contro la Brexit, mentre i nazionalisti scozzesi hanno già annunciato di voler votare in blocco contro l'uscita dall'Unione Europea. In ogni caso, i numeri sembrano poter garantire al governo il necessario sostegno. I giudici dell'Alta Corte hanno chiarito che il verdetto non intende mutare la volontà popolare. La Brexit, a loro avviso, si farà, il referendum deve essere rispettato, ma intendono regolare i poteri dello Stato. Una mossa come l'addio dall'Unione Europea non può pertanto essere decisa solo dal governo, ma ci vuole un atto parlamentare. E questo apre scenari di grande incertezza, perché le procedure dei comuni e della Camera dei Lords potrebbero riservare nuove sorprese, con l'inserimento di paletti imprevisti nel negoziato anglo-europeo. Leonardo Maisano, Radio 24 e Sole 24 Ore, Londra. Questo dunque questa è la novità sul fronte britannico. Ci sono altri temi, ovviamente, uno dei quali è quella della informazione e disinformazione, la trasformazione, se vogliamo, proprio in questi ultimi giorni del rapporto con la Russia, visto anche dall'Unione Europea. La cancelliera Merkel è stata infatti nel 2016 uno dei bersagli preferiti della disinformazione orchestrata dalla Russia. Questo almeno sostiene una fonte tedesca, e il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha lanciato fin dal 2015 un gruppo di lavoro denominato East Stratcom Task Force, un nome complesso, sentiamo di che si tratta. Il gruppo di lavoro europeo denominato East Stratcom Task Force, lanciato nel 2015 dal capo della diplomazia europea Federica Mogherini, è arrivato alle prime conclusioni. Il team di 11 persone, con il supporto di un network di 400 volontari, si occupa della comunicazione strategica costituita nel Servizio di Azione Esterna Europea e ha identificato circa 2.500 notizie totalmente inventate. In particolare, la Russia, secondo il gruppo, usa la propaganda per destabilizzare l'Occidente e considera la disinformazione come uno strumento militare, realizzato in quelle che vengono definite come vere e proprie fabbriche di troll, ovvero di false notizie in cui gli addetti vengono pagati in base alla circolazione e condivisione delle notizie sui social media. Un esempio, la cancelliera tedesca Angela Merkel, indicata recentemente come alleata dell'ISIS negli attacchi del 31 dicembre in Turchia. Gli alleati e complici della disinformazione, è stato indicato, sono spesso ONG, partiti e media. Il punto più debole sono le breaking news, settore in cui persino la BBC è incappata almeno due o tre volte. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo direi che è tutto. Due notizie molto importanti di cui troveremo traccia ampia nel corso dei nostri giornali radio. Un saluto, ci sentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.